Canto undicesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto undicesimo. In sull'estremità di un'alta ripa che facevan gran pietre rotte in cerchio, venimmo sopra più crudele stipa, e quivi, per l'orribile soperchio del puzzo che il profondo abisso gitta, ci raccostammo dietro ad un coperchio d'un grande avello, ov'io vidi una scritta che diceva: Anastasio Papa guardo, lo qual trasse Fotin della via dritta. Lo nostro scender conviene esser tardo, sì che s'ausi un poco prima il senso al tristo fiato, e poi non fia riguardo. Così il maestro ed io. Alcun compenso, disse lui, trova che il tempo non passi perduto, ed egli, vedi che a ciò penso. Figliuol mio, dentro da cotesti sassi, cominciò poi a dir, son tre cerchietti, di grado in grado come quei che lassi. Tutti son pien di spirti maladetti, ma perché poi ti basti pur la vista, intendi come e perché son costretti. D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista, ingiuria il fine, ed ogni fin cotale o con forza o con frode altrui contrista. Ma perché frode è dell'uom proprio male, più spiace a Dio, e però stan di sutto li frodolenti, e più dolor gli assale. De violenti il primo cerchio è tutto, ma perché si fa forza a tre persone, in tre gironi è distinto e costrutto. A Dio, a sé, al prossimo si puone far forza, dico in loro e in le lor cose, come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno, e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose, onde omicidi e ciascun che malfiere, guastatori e predon tutti tormenta, lo giron primo per diverse schiere. Puote uomo avere in sé man violenta e nei suoi beni, e però nel secondo giron convien che senza pro si penta. Qualunque priva sé del vostro mondo, vi scazza e fonde la sua facultade e piange là, dove esser dei giocondo. Puossi far forza nella deitade, col cuor negando e bestemmiando quella, e spregiando natura e sua bontade. E però lo minor giron suggella del segno suo, e Sodomma e Caorsa, e chi spregiando Dio col cuor favella. La frode, ond'ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che si fida e in quello che fidanza non imborsa. Questo modo di retro par c'uccida pur lo vincol d'amor che fa natura, onde nel cerchio secondo s'annida. Ipocrisia, lusinghe, e chi affattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. Per l'altro modo, quell'amor s'oblia che fa natura, e quel che poi è aggiunto, di che la fede spezial si cria. Onde nel cerchio minore, ov'è il punto dell'universo in su che dite siede, qualunque trada in eterno è consunto. Ed io, maestro, assai chiaro procede la tua ragione, ed assai ben distingue questo baratro e il popol che il possiede. Ma dimmi, quei della palude pingue, che mena il vento e che batte la pioggia e che si incontran con sì aspre lingue, perché non dentro della città roggia sono ei puniti se Dio gli ha in ira? E se non li ha, perché sono a tal foggia? Ed egli a me, perché tanto delira, disse, lo ingegno tuo da quel che è suole, ovver la mente dove altrove mira? Non ti rimembra di quelle parole con le quali la tua etica pertratta le tre disposizioni che il ciel non vuole, incontinenza, malizia e la matta bestialitade? E come incontinenza men Dio offende e men biasimo accatta? Se tu riguardi ben questa sentenza e rechiti alla mente chi son quelli che su di fuor sostengono penitenza, tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti e perché men crucciata la divina giustizia li martelli. O sol che sani ogni vista turbata, tu mi contenti sì quanto tu solvi, che non men che saper dubbiar m'aggrata. Ancora un poco indietro ti rivolvi, diss'io, là dove dì ch'usura offende la divina bontade e il groppo svolvi. Filosofia, mi disse, a chi l'attende, nota, non pure in una sola parte, come natura lo suo corso prende dal divino intelletto e da sua arte. E se tu ben la tua fisica note, tu troverai, non dopo molte carte, che l'arte vostra, quella, quanto puote, segue, come il maestro fa al discente, sì che vostr'arte a Dio quasi è nipote. Da queste due, se tu ti rechi a mente lo Genesi, dal principio convene prender sua vita ed avanzar la gente. E perché l'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia, ponché in altro pon la spene. Ma seguimi oramai, che il gir mi piace, che i pesci guizzan su per l'orizzonta, e il carro tutto sovra il coro giace, e il balzo via là oltre si dismonta. Fine del canto undicesimo.